Sì, sia per quanto riguarda i pullman provenienti dall'Italia che dalla stessa Germania, quindi ad esempio i pullman provenienti da Berlino sono stati tutti bloccati o rallentati, alcuni manifestanti sono stati rispediti indietro, altri, ad altri non è stata data la possibilità di arrivare, di accorrere qui fino alle piazze, appunto, che sono comunque impedite dalla polizia. Un altro dato interessante è che a partire da ieri, con lo sgombero di quelli che erano le piazze che si era cercato, insomma, di rendere attive, si parlava appunto di 15 concentramenti tematici con delle piazze che andavano appunto dall'attivismo dal basso all'associazionismo, ai partiti della sinistra, al sindacalismo di base, quindi si andava da incontri, momenti seminariali a veri e propri cortei. Tutto questo è stato impedito e a partire da ieri sono stati forniti alcuni fogli di via dal perimetro della City o comunque dalla città di Francoforte. Diciamo, questo è il clima. Ci troviamo in questo momento. La cosa che secondo me comunque è importante sottolineare è che da un lato sicuramente c'è stata una repressione ingiustificata, una sospensione completa della democrazia in Germania, nella piazza finanziaria, ma dall'altro c'è anche a dire che gli organizzatori non hanno assolutamente saputo prevedere questo tipo di reazione della polizia e delle istituzioni, anche se molto probabilmente era prevedibile, visti gli annunci anche delle settimane precedenti.